Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buongiorno in questo sabato 3 dicembre in cui la vera gara per chiunque sia di fronte a un microfono di una radio è quello di ricordarsi qualunque fiato, qualunque ispirazione o espirazione, qualunque avverbio, nome, aggettivo, nome di persona, nome di cosa, interiezione, esclamazione, maledizione pronunzi, non deve cominciare per R e non deve finire per M. Ed è particolarmente difficile perché RAM, parliamo di computer. Lo sapevo, infatti, che basta. No, ma però al di là della battuta, random. Lo sapete che oggi non si parla. Comunque sono contrario, Oscar. Sono contrario a trattare gli elettori come dei bambini. Silenzio, ma ci arriva la sanzione della GCOM. Perché? E me la fanno pagare a me. Sono contrario a trattare gli elettori come se fossero degli adolescenti. Tanto la festa continua sui social. Per cui voglio dire. Allora, sentite, mettiamoci d'accordo. Non l'ho fatta io la norma. E tantomeno quella della par condicio, quindi figuriatevi. Però la norma, lo ricordo a tutti coloro che oggi intervengono, è questa: non bisogna parlare di quello di cui non si è parlato d'altro. Wittgenstein, ecco, il governo di Wittgenstein. Esatto, ciò di cui bisogna tacere, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, detto invece questo, cari ascoltatori, di che cosa parliamo in questa puntata sui conti della Belva, alla quale potete intervenire, lo sapete, comando 800 24 00 24 e con le opinioni 349 238 6666. Sempre che gli altri parlino più di me oggi, perché io sono impestato dai miei figli, ho tutte le forme patologiche respiratorie che si possano immaginare, quindi avrò una voce ancora più da papera e qualche colpo di tosse e mi scuso. Di cosa parliamo oggi? Allora, all'inizio cominciamo, lo sapete, con la rubrica di Mario. A che punto è la crisi? Questa settimana ci sono un aggiornamento dei dati sull'occupazione che non cambiano di molto la situazione, anche se mutano ovviamente irrigidendo da una parte e dall'altra i criteri con cui si interpretano, perché ci sono delle tendenze e le sappiamo, quelle che sono ormai emerse dopo l'avvio a fine della decontribuzione post Jobs Act, e poi commenteremo la novità di ieri, una novità che si deve a un'ordinanza del Consiglio di Stato che interviene su un punto delicato aperto, come se non bastassero le questioni relative a MPS, due parole anche su quello, perché sapete che ieri sera la banca senese ci ha informato che ha raccolto dallo swap di titoli subordinati solo un miliardino, e vedremo di capire in quattro parole che cosa questo può voler dire. Ma al di là di questo, ieri il Consiglio di Stato è intervenuto con un'ordinanza su una materia molto delicata, perché blocca adesso l'attuazione dell'iter della trasformazione delle 10 maggiori popolari in SPA per chi non lo ha fatto, ma lo riapre anche per chi lo ha fatto, perché intervenendo sul diritto di recesso, su un punto non chiaro della legge e su un eccesso, per così dire, di delega della circolare della Banca d'Italia, parapam, riapre un problema aperto, come se non bastassero i guai. Nel merito vedremo se è fondata l'ordinanza, ma soprattutto bisogna vedere le conseguenze concrete, cosa succede a questo punto a Bari, cosa succede a Veneto, Vicenza, che pure avevano già votato. E così via. Dopodiché abbiamo un ospite a cui teniamo molto in studio, perché abbiamo con noi l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiano, Renato Mazzoncini, e con lui ci porremo un grande problema di fronte a questa svolta che sembra delineata ormai con questo piano decennale del gruppo pubblico. La domanda è davvero questa grande integrazione di piattaforme, di forme di trasporto, una straordinaria occasione non solo per investire meglio e con più efficienza, ma visto che è lo Stato a farlo a questo punto, non è che c'è un po' un rischio che diventi una grande mano armata centralizzata facendo polpette di quel poco, molto poco di concorrenza che c'era in settore come trasporto pubblico locale, e molto per colpa anche delle autonomie? Ecco, questa sarà la domanda, gli faremo delle domande incalzanti, vedremo se naturalmente ci metterà sotto, però ci metterà sotto o meno, l'essenziale è parlarne apertamente. Non è un tema tecnico, è un tema che ha a che vedere con uno dei fattori di gap accumulato nel nostro paese, produttività comparata. Sia per quello che riguarda le persone, la merce e la logistica, molto, ripeto, molto importante. Non è del tutto scollegato, come potrete immaginare, rispetto a fenomeni su cui fate scelte di trasporto per qualità comparata del servizio offerto quando usate i telefonini, ma ha proprio a che fare con la rivoluzione di questo mondo, sia Uber o sia aboliamo un tratto di automobile con mia nuora o mia suocera, più o meno stiamo parlando della stessa cosa. E naturalmente bisogna vedere, sono loro il soggetto o bisogna rassegnarsi al fatto che siano solo loro a poterlo fare, con quali caveat e con quali incentivi e stimoli, e soprattutto potere locale aprirà gli occhi su cosa puoi fare e cosa no, o ci regali solo delle grandi attack diffuse sul territorio. Ecco, questa è una prima parte di trasmissione, mentre nella seconda trarremo spunto dal 50° rapporto del Census di ieri e soprattutto dalla parte che descrive le condizioni dell'economia e delle famiglie italiane, un paese di vecchi rentier. E con una frase incredibile che riguarda il patrimonio immobiliare dei vecchi rentier, ne parleremo con il direttore generale del Censis e con giovani sempre più fuori da tutto. Può andare avanti così? No, collassa se va avanti così. Quindi questo sarà il tema della nostra trasmissione. Rapidissimamente, caro Alberto e Mario, che cos'altro di questa settimana oltre a tutto questo vi ha colpito, Mario? Ma allora, cioè, continuano le giravolte dei nostri amici britannici sulla Brexit. Questa settimana gira voce anche per così ammissione del ministro Davis che potrebbero pagare per avere accesso al mercato unico, che poi è un modo abbastanza elegante per dire che vanno verso, forse verso una soft Brexit o verso una soluzione norvegese. Comunque la mia idea è che non abbiano idea, quindi siamo ancora assolutamente in alto mare. Sicuramente attiveranno l'articolo 50 entro marzo, quello sarà un atto puramente formale, sì. Dopodiché sarà buio pesto, questo della serie non avere idea, alcuni non hanno idea di che cosa sia la Brexit, adesso lo vedremo strada facendo. So che invece in Italia molte persone sono convinte che la Brexit è già avvenuta ed è stato un trionfo, quindi andiamo avanti così, noi cercheremo di farvi memoria e di ricordarvi come sta funzionando o non funzionando la Brexit. Altro punto della serie, Trump fa lo sberleffo all'establishment e alla grande finanza e nomina un ex veterano di Goldman Sachs nonché gestore di hedge fund. Come lo pronunci tu? Produttore. Ma c'era la traduzione esatta sul Financial Times che è Mnuchin, perché c'è una I che non è nella grafia e la U si legge U e non A. Quindi io sto a quello così che dice il Financial Times. Ho sentito servizi di colleghi di CBS, dice, ognuno che ne diceva una diversa, però bisognerà, sì, però allora anche questo punto, diciamo, dopo il fatto che ministro al tesoro. Esatto, il programma elettorale di Trump prevede la non abolizione del carried interest, che è la tassazione agevolata per i grandi gestori di fondi hedge e di private equity, che anzi avranno una deroga e pagheranno il 15% come la nuova imposta sulle aziende. Della serie, ecco che Trump sta cercando di affrontare la grande finanza e di metterla a cuccia. Quindi, ancora una volta, diciamo... Beh, cari... più che mettere la cuccia, si tratta di fare rimpatriare un paio di trilioni di dollari di utili. In un regime fiscale che resta estremamente agevolato, poi adesso nei prossimi giorni ci sarà questo super vertice da Trump fatto da grandi finanzieri, ci sarà anche Jamie Dimon di JP Morgan. No, si occuperà di MPS. No, ma per la serie, esatto, qua in Italia, siccome c'è ancora qualcuno che non ha capito, è convinto che Trump sia una sorta, come dire, di francescano che arriva a disciplinare quelli che sono i poteri forti e che hanno capito anche che la Brexit è avvenuta ed è stato un trionfo. E questo è il problema dei nostri amici populisti, che loro hanno un conflitto innato con la realtà. Con la realtà. Caro Alberto, tu? Ah, visto che abbiamo parlato di estero, devo parlare della Francia un secondo, dicendo che sono arrabbiato perché due giorni spesi a Parigi e ho visto di nuovo una grande civiltà democratica, devo dire la verità, un popolo in cui il presidente attuale dichiara... No, perché pensavo, sono andato alle sfilate di moda, non erano le donne. No, diciamo, mi sarebbe piaciuto, ma mi occupavo di altre cose. Ah, ecco. Parigi è sempre bella, ma volevo dire che da italiano mi sentivo in un paese che sapeva fare le scelte giuste, cioè... Ma Fion, di che parte? No, parlo di una settimana che ha visto le primarie del Partito Popolare che hanno proposto esattamente, tra l'altro un candidato non atteso, selezionato sulla base appunto del merito, un presidente che dice non mi candido in maniera trasparente, un dibattito democratico che io invidio. E siccome non posso pronunciare la parola con la R, non la posso pronunciare. No, però puoi pronunciare quella con la B. Ti fa ridere rispetto a Berlusconi che torna. Su, dillo, Mi fanno ridere, mi fanno ridere purtroppo di tristezza. E i discorsi che invece ho sentito tornando in Italia. Che sono gli stessi da 20 anni, con la caricatura delle primarie. Esatto, ecco. Quindi posso dire, mi spiace, ma invidio i cugini francesi che hanno un sistema politico elettorale di grande trasparenza. Ecco. E non è che anche loro si siano risparmiati qualche caduta di cose come le Carlà. Però ecco, sono capaci anche di per qua e non per là con le Carlà. Detto questo, partiamo tra un minuto. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Sottolineo, non ha a che vedere con la scelta che fate domani. Come sapete, è la nostra sigletta da sempre questa, quindi non fate battute, non mandate sms. Mario, cosa cominciamo? Dati occupazione? Ma no. Sì, di dati... No, appunto, io ho fatto una piccola analisi dei dati di occupazione, per certi aspetti anche di quelli del PIL, però non voglio, come dire, alluvionare di numeri chi ci ascolta, perché già la vita è difficile, dura, poi anche sabato mattina. Però quello che colpisce, e lo ribadiamo come sapete da molto tempo, è questo aumento degli occupati over 50 che fanno l'andatura. Questo è un dato che, se lo incrociate con l'osservatorio sulla precarietà INPS, dove trovate i dati di attivazioni e cessazioni, che sono fatti veramente molto bene perché sono disaggregati anche per corte anagrafica. Ogni tanto riconosciamo che i dati sono trattati bene, assolutamente, va detto, assolutamente, ma sì, io sono il primo a dirlo. Vedrete che non c'è stato alcun boom di attivazioni degli over 55 rispetto alle altre corti anagrafiche. Quello che voglio dire, e lo sapete, non vorrei annoiarvi, è che questo aumento del numero di occupati che si realizza per effetto, diciamo, della forte presenza di paletti all'uscita, all'innalzamento dell'età pensionabile, deriva da quello, cioè è una dinamica demografica che si incrocia con la dinamica dei limiti e dell'innalzamento dell'età pensionabile, che fa sì che col trascorrere del tempo la corte anagrafica over 50 e over 55 si gonfia. Non c'è un vero e proprio boom dell'occupazione, è un effetto ottico sul quale si innesta a livello congiunturale il fatto che è in corso una ripresa, però il grosso dell'effetto è demografico legislativo, diciamo normativo. E questo è importante ribadirlo, perché non lo sento detto praticamente da nessuno. Cioè, alcuni pensano che in Italia le aziende stiano assumendo a mani basse gli over 50 e gli over 55 perché sono esperti, e non è così. Altri pensano che appunto ci sia stata una revitalizzazione e tutte le metriche di calo della produttività. Non è così. Io ho fatto un esempio ieri scrivendo il mio commento. Prendete il corpo elettorale italiano, no? Il numero degli aventi diritto a votare, cioè quelli che hanno compiuto 18 anni, rapportatelo, prendetelo in valore assoluto e rapportato al totale della popolazione italiana, scoprirete che a causa dell'invecchiamento della popolazione c'è un trend molto preciso, che il corpo elettorale sta aumentando in valore assoluto, perché aumenta il numero degli over 18, e l'incidenza sul totale della popolazione aumenta perché la popolazione italiana sta invecchiando. So che questo magari non è immediatamente, come dire, intuitivo, soprattutto al sabato mattina, una trasmissione mediamente leggera, però questa è la dinamica principale nella creazione di occupazione. Per quanto riguarda invece il dato su PIL, avete visto, è stato confermato il più 0,3% del terzo trimestre. A dire il vero, come dire, per effetto degli arrotondamenti era uno 0,254, sì, come ha segnalato maliziosamente anche Riccardo Pugliesi, sì, anche in un commento sul Corriere della Sera ieri e prima ancora sui social. Sono 16 milioni che hanno permesso di scattare da 0,2 a 0,3. Questo cambia poco. Quello che conta è che, ancora una volta, gli investimenti in mezzi di trasporto fanno l'andatura. Esatto. Perché la crescita annuale dei mezzi di trasporto nel PIL è del 2,3%, quella complessiva, scusate, degli investimenti è del 2,3%, ma mezzi di trasporto più 33,8%. Sì, per cui anche questa è un'altra costante molto precisa. Oramai no, che va avanti da un certo numero così elevato di trimestri ad essere diventata la cosa a cui bisogna accendere il cielo. Cioè, esatto, ma perché, esatto, ma perché... C'è anche il tema dell'ammortamento, che è stato facilitato da questo punto di vista. Però, insomma, sì, sì, grandi determinanti sono comunque, queste due. Comunque, lo diciamo sempre, sono a leva perché FCA sta usando l'Italia per produrre ampia parte destinata all'export, per cui è legata con un moltiplicatore alla congiuntura globale, e finché regge quella reggono i volumi e l'attività produttiva. Altre due note che sono positive per la congiuntura, così non dite che sono sempre negativo: gli indicatori della manifattura, quindi l'indice market dei direttori acquisti di imprese manifatturiere, è in crescita in Europa, è migliorato anche in Italia, è in robusta crescita anche negli Stati Uniti. Quindi c'è un revival della manifattura nei paesi sviluppati in questo scorcio finale dell'anno, che avrà effetti positivi. C'è anche un po' di effetto Trump sulla congiuntura nei prossimi almeno due trimestri, sì, quando poi ci sarà, verrà implementato lo stimolo di Trump. Perché dico questo? Perché poiché quando c'è l'alta marea anche i relitti galleggiano, subito diventi pessimista. È probabile che anche noi tra un paio di trimestri potremo avere un effetto positivo di trascinamento dall'impulso espansivo degli Stati Uniti. E se estrapoliamo l'investimento sui mezzi di trasporto, anche sulle infrastrutture produttive dell'industria 4.0, fammelo dire, io mi aspetto un 2017 in cui il contributo al PIL degli investimenti, in particolare gli investimenti manifatturieri, non sarà trascurabile. Quindi penso un po' che roba, poi, per una volta bisogna dire infatti, perché sennò poi dicono che siamo dei gufi. Qui c'è un dato potenzialmente positivo che potrebbe aiutare, diciamo, chiunque sarà a Palazzo Chigi nel 2017. Chiunque, chiunque. Esatto. Poi a parte che qui non siamo tutti gufi, io e te siamo gufi, lui è un Barbagianni. Perché con i bambini piccoli ormai però vedo Barba. Posso dire l'ultima cosa? Allora, Stati Uniti, PIL annualizzato più 3,2%, disoccupazione al 4,6%. Aspetta, questo è Barack Obama, fatemelo dire, per una volta, perché lo devo dire, visto che ha finito, ed è giusto dire così. Quindi figurati cosa ci sarà adesso in arrivo con Trump. Ma siccome leggo che Obama con Obama l'economia americana è rimasta stagnante, adesso con Trump riparte. Spiegatemi il senso di questo verbo ripartire. Di record storico di bassa partecipazione al mercato del lavoro, ormai 96 milioni di americani che non partecipano al mercato del lavoro, però questo è innegabile quello che hai detto. Signori, qui ci sono due novità per una settimana che riguardano le banchette, perché abbiamo avuto diciamo alcune pronunzie, no? Cioè quella del Consiglio di Stato che commentiamo adesso, però lasciatemi dire che c'è anche quella del GUP di Arezzo, perché quella del GUP di Arezzo su no ostacolo di vigilanza da parte del presidente, amministratore delegato e direttore generale di Banca Etruria. Stiamo parlando, cari ascoltatori, del conti bilancio relativi al 2012. Banca Italia aveva detto chi guidava la banca non ci aveva dato un rendiconto pieno degli incagli che in realtà erano sofferenze. Per questo abbiamo chiesto un aumento di capitale al di sotto di quello che era necessario per la ricapitalizzazione della banca. Quindi Banca d'Italia è la prima a dire: voi avete mentito, ostacolo, sanzioni, ci costituisce parte civile di fronte al giudice, e chiede anche il danno, 350.000 euro. Il giudice dice: no, neanche per idea, chi guidava la banca si è adeguato agli indicatori e criteri con i quali gli incagli erano incagli, le sofferenze erano sofferenze. Per favore, la Banca d'Italia non dica che non si è adeguata, perché quelli che in giudizio ha citato sono quelli relativi all'irrobustimento dei criteri, però sono successivi alla vigilanza comune che viene dopo rispetto al 2012. Quindi prima ad Arezzo facevano esattamente quello che Banca d'Italia chiedeva di fare. Guardate che questo è un giudizio, a mia opinione, come sempre, irriguardosa, che è un ceffone e un calcio in culo alla Banca d'Italia. E va sottolineato da parte di quelli che, come me, ritengono che ci sono stati comportamenti collusivi dei regolatori, con una certa durezza. Lo so, nel sistema dei media italiani non avverrà mai, però questa è una parte del problema. Sulla, invece, ordinanza del Consiglio di Stato, che a questo punto sospende la trasformazione di banche popolari in SPAC, secondo la riforma del governo, le prime 10 per entità, e la sospende aprendo anche dei punti interrogativi per chi nel frattempo l'aveva già votata. Sentiamo che ne pensano Mario e Carlo Alberto. Non voglio inguaiarvi con le stesse cose che ho detto sulla sentenza del GUP. Formalmente è una cosa che ha basi. Dal punto di vista sostanziale, io penso che debba prevalere invece il principio della continuità aziendale e il rispetto dei vincoli di capitale. Quindi questo è nei panni di chi botte piena, come si fa? Mi metto nei panni di chi adesso deve approvare un bilancio e dovrebbe teoricamente accantonare a riserva una copertura a fronte di un rischio di dover riconoscere. Consiglio di Stato dice: cari signori, se dovete deliberare questa trasformazione perché le banche sono corte di capitale e quindi rompete il principio della tutela del risparmiatore negando il pieno rimborso, 47. Signori, voi lo dovete mettere per iscritto. Non l'avete messo per iscritto, sì, e la Banca d'Italia però invece lo mette nel regolamento. Però posso dire, stavolta articolo è stato 47 della Costituzione. È stato il governo a passare la patata bollente a Banca d'Italia. Fanno due, te la sei presa con loro, non che voglia difenderli, ma stavolta toccava alla politica, quando ha fatto la riforma, dire con chiarezza che non era proprio vero che tutte le banche fossero solide e che bisognava accettare di contemperare gli interessi. Ma è un favore a Bari, che dite? No, secondo me no. Secondo me, anche perché voglio Bari che aveva l'assemblea per votare, eccetera, eccetera. Anche Sondrio aveva l'assemblea. La Bari molto tutelata dalla Banca Italia, anch'essa. Scusate, se cos'è stamattina votare contro. Lo sapete perché. No, comunque, secondo me è un bel dilemma. Perché a questo punto io dovrei veramente prevedere di dover rimborsare o integrare l'eventuale diritto di recesso. Vuol dire mettere da parte altri miliardi di euro di capitale che non ci sono. Quindi, questa cosa qua, se presa alla lettera, rischia veramente di mettere in crisi i bilanci di qualcuna delle banche che hanno fatto la conversione. D'altro canto, sul piano formale è ineccepibile, nel senso, tu non puoi ineccepibile stabilire l'obiezione del Consiglio di Stato passa alla Corte Costituzionale. L'obiezione del Consiglio di Stato e del senso comune è che se tu hai una trasformazione che implica una facoltà di recesso, stabilisci un prezzo di recesso e però interviene qualcuno, un regolamento, e dice il recesso non può avvenire perché altrimenti la banca mi muore in mano per sottocapitalizzazione. Che è questa la circolare Banca Italia, che è questa la sostanza delle cose. Voi capite che, allora, io resto dell'idea, molto, come dire, cinicamente, che esistono dei passaggi nella vita delle aziende, dei paesi e delle persone in cui le norme devono subire una torsione, perché altrimenti la conservazione dell'esistente non porta da nessuna parte. È un'ambizione inutile. Adesso sono mi diranno d'accordo che sono un fascista o quant'altro, ma pazienza, diciamo, superato prove peggiori nella vita. Siamo evoluzionisti noi. No, esatto, quindi nessuna interpretazione letteralista. Però, cioè, alla fine. Però bisogna dirlo chiaro. Però bisogna dirlo. Scusa, Mario, quello che sto dicendo toccava alla politica. Quindi voi due, tenaci sostenitori, lui più di te, del governo, eccetera, eccetera, osate dire che c'è stato un errore. Dire che c'è stato un errore nel decreto. Sottolineo, caro ascoltatore. Non un errore, l'hanno detto loro, l'hanno detto loro. Comunque, diciamo che sono momenti difficili e che trasformare un sistema cooperativo in SPA. In un momento in cui le banche non piacciono agli investitori, certo, e non solo in Italia, ribadiamolo. Andava fatto quando c'era tempo per farlo. Esatto. Adesso metti sotto stress una situazione in cui non hai accesso al capitale. Quindi, adesso aspettiamo di vedere cosa succede. Però, cari ascoltatori, avrete capito che questo potenzialmente ha un impatto che potrebbe essere molto, molto, molto serio. Perché riguarda Veneto, Vicenza, cioè non solo Bari. E anche quelli che sono già stati deliberati. Esatto, riguarda Popolare Milano, che non a caso di lì viene l'impugnativa. Banco Popolare, quindi stiamo parlando di tutto ciò che va oltre poi a quello che capiremo solo vivendo, di cosa succede a MPS, che ha avuto uno swap inferiore alle aspettative. Però noi sappiamo che la Banca d'Italia che la Corte Costituzionale quando vuole riesce a come dire bloccare la retroattività. Vero, l'ha fatto su molte vicende, dalle pensioni alle retribuzioni. Visto che in questo caso il Consiglio di Stato ha veramente invocato a squarciagola l'intervento della Consulta, ha passato la patata ai giudici, lo risolve la Corte. Come è giusto che sia, la Corte lo risolverà e lì vedremo che tipo di retroattività verrà stabilita. Intanto vedremo lunedì se nel frattempo, prima di apprendere i risultati di quello che non si dice ma farete domani, si chiude in queste ore l'accordo con i fondi internazionali per Siena oppure no. Perché il problema è che la banca vorrebbe chiudere prima che si sapesse risultato. Se io fossi in uno dei fondi di investimento aspetterei dopo, ma su questo sono tutte le azioni, quindi ci fermiamo e torniamo adesso con l'amministratore delegato del Ferrovie dello Stato Italiano tra un minuto. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore, scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30, su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ed eccoci tornati in studio, cari ascoltatori di Conti della Belva, in questo sabato mattina alle 10.36 primi, anzi 37 primi, fresco fresco di nomina a Parigi dalla presidenza di una cosa che quando io ho letto ho detto: e ci siamo, finalmente, l'Italia che cresce nel gioco internazionale, perché dovete sapere che la sigla è l'Unione Internazionale di Chemin de Fer. Ho pensato subito ai casinò, al gioco, no, sono l'Unione Internazionale delle Ferrovie, a dire la verità, è una cosa più seria. Renato Mazzoncini che è con noi in studio, che è l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Buongiorno a tutti, eccomi qua. Io parto subito, io farò il cattivo, Carlo Alberto farà il buono. Allora, con lei, Ferrovie dello Stato, effettivamente in pochi mesi abbiamo appreso di un grande piano industriale, piano decennale, si parla di 91 miliardi di investimenti, oltre la metà già disponibili, l'idea, il raddoppio di un fatturato che da un po' meno di 9 arriva a 17 miliardi erotti, e un'idea che a quelli come me farà brividire. Io glielo dico, io quando ho visto che lei è bravo mi è venuto un giramento di palle, perché preferirei uno non bravo, perché uno non bravo, se fa questo piano, non riesce a acchiappare il trasporto pubblico locale. Volete prendere di nuovo dall'ATAC a Ferrovie Nord, a Sud-Est in Puglia, eccetera eccetera. Volete prendervi sul gomma cose gestite da privati o da grandi gruppi concorrenti. Insomma, avete un'idea di fare un grande integratore, perché questa è la scelta del vostro piano, una grande piattaforma di integrazione delle differenti forme di trasporto, che è una cosa che non mi sfugge, molto positiva, ma che può essere fatta così. Già noi non abbiamo avuto la concorrenza promessa in un fracco di segmenti, nel trasporto pubblico locale non ce l'abbiamo avuta, tranne rarissime eccezioni. Se fate tutta questa roba con un governo che si sostiene, si riaccentra tutto, diventate la mano armata, vi prendete l'ANAS, ma un presidente del Consiglio che in 3 mesi avesse deciso di dire do a Ferrovie lo Stato l'ANAS, si vedeva il Vietnam di fronte. Invece con loro sta succedendo un bene, un male, non lo so, però io ho dei timori, non mi sfugge la portata positiva, però dei timori. Lei dia una risposta ai timori e poi dica invece in cosa è sbagliato questo timore, ma soprattutto cosa si può fare se si fa davvero tutta questa roba qua. Allora, caro Oscar, il problema è che lei confonde il fatto di integrare col fatto di comprare. Sono due cose completamente diverse. Il mio problema è molto semplice. Io vedo un sistema di trasporto pubblico che non funziona bene. Non funziona bene per la semplice ragione che l'80% della gente va in macchina. Se l'80% della gente nel 2016 gira ancora in macchina in Italia, in un periodo in cui è evidente che dal punto di vista culturale la gente vuole passare dal possesso delle cose all'accesso ai servizi, in un momento in cui la digitalizzazione abilita qualunque tipo di opportunità, ed è tutto evidente che vuol dire che noi abbiamo un sistema che non funziona. Allora, il nostro punto di partenza è stato molto semplice. Chi è il nostro cliente? È il cliente del treno? No, non credo proprio. Non credo. Qualcuno che abbia voglia di prendere il treno perché gli piace il treno ci sarà, qualche appassionato, ma sono pochi. La maggior parte della gente è gente che vuole spostarsi, e per spostarsi fa come l'acqua, si sposta da un posto all'altro seguendo la strada con il minor attrito. In questo momento l'attrito principale è la pianificazione del viaggio. Uno esce di casa, deve andare al lavoro, deve andare in vacanza, deve pianificare il viaggio. Se lo pianifica con la propria automobile è facilissimo, scende, gira la chiave, mette il navigatore, parte. Poi ha un sacco di problemi in mezzo, ma la pianificazione è facile. Se deve farlo col trasporto pubblico incominciano problemi di tutti i tipi, perché uno dice: va bene, come vado in stazione? Prendo la bicicletta, prendo un car sharing, prendo un taxi, prendo l'autobus, cosa uso? Devo comprare un biglietto, come compro il biglietto? Arrivo in stazione, ho fatto il biglietto, devo integrarmi. Il viaggio è un grande problema, la costruzione di questo viaggio. Allora, se noi vogliamo far scendere la gente dall'automobile, dobbiamo fare, a mio avviso, una cosa semplicissima, che è quello che sta accadendo anche in altri settori. Cioè, dobbiamo fare in modo che le società che si occupano di servizi di mobilità, uso questo termine in maniera precisa, che vuol dire le ferrovie, un car sharing, un bla bla car, uno che si occupa di bike sharing, quelli dei taxi con la loro applicazione taxi.it o le altre, e tutti gli altri soggetti, il trasporto pubblico urbano, il trasporto pubblico extraurbano, devono diventare una catena integrata. Vuol dire che devono stare su un'app, come fanno tutti quelli che nel 2016 vogliono vendere un servizio a qualcuno, in cui uno mette che vuole andare da Aosta a Crotone, gli appaiono le 27 possibilità che ci sono: prendo l'aereo, prendo Trenitalia, prendo Italo, prendo il Flixbus, prendo, vado con BlaBlaCar tutta l'origine, prendo un autobus, poi prendo un pezzo di treno, poi prendo di nuovo un altro autobus, sceglie la sua alternativa in funzione di quello che gli interessa: tempo, costo, comfort, ho paura a viaggiare in aereo, voglio dire, e schiaccia un bottone, compra il biglietto, parte. Noi dobbiamo ridurre quella che in inglese si chiama la friction, l'attrito del sistema. Per fare questo dobbiamo diventare una catena. Quindi io quello che sto proponendo nell'ambito della mobilità è una grande alleanza con le altre imprese di mobilità. E mi piace parlare alla radio, mi piace venire, sono contento di essere venuto qua oggi anche di persona, oltre che per constatare, cari telespettatori, che Giannino almeno sabato mattina si veste in maniera normale, vi confermo. Quindi anche il fatto che bisogna avere l'alleanza con i cittadini su questa cosa, perché sono convinto che i nostri stakeholder fondamentali siano loro, che devono riuscire a concepire che il trasporto pubblico deve essere devono avere un feeling col trasporto pubblico diverso da quello che hanno oggi. Per fare questo, lascio la palla a Roberto. Faccio solo per fare questo, scusa Milano, Oscar, finisco. Certo. Per fare questo, solo una considerazione. Siccome siamo una catena, perché ognuno di noi fa un pezzo, noi come ferrovieri facciamo il pezzo, diciamo, sul binario. Siamo il backbone, l'ossatura del sistema, ma siamo un pezzo. Se la catena ha degli anelli deboli, ed è un problema di tutte le catene, a un certo punto su quel punto si spezza, e noi non possiamo non occuparci del fatto che la catena abbia degli anelli deboli, perché altrimenti la gente va in macchina. Allora il mio messaggio è semplicemente questo. Però voi non volete solo, perché, cari ascoltatori, anelli deboli, intendiamoci, l'ATA è debolissimo, quindi capisco, certo, rientra. È questo il ragionamento. Le, cioè le ferrovie del sud-est in Puglia, sì. Oh, per bravo. Quanto hanno un bilancio non altrettanto scassato. Le AV a Napoli, disastro assoluto, anello debolissimo. Però voi volete anche Ferrovia Nord e Trenord, che non è un anello debole. Non è vero, no, caro mio, Trenord è un anello debolissimo. Perché Trenord è nata con una sottocapitalizzazione, vero, dovuta dal fatto che dovevano mettere insieme due pezzi, che erano quelle delle storiche Ferrovie Nord con piccolissimo capitale, con Trenitalia, per non avere il rapporto che c'era allora 80-20, cioè per andare a 50-50. Trenitalia si è tenuta i treni, si è abbassato il capitale. Oggi Trenord è una società che fattura 700 milioni di euro con 70 di capitale, e che non è in grado di fare investimenti nelle dimensioni. Questa è la risposta che accetto. Quindi il mio problema è semplicemente questo. Cara Regione Lombardia, perché stiamo parlando di te. Cara Regione Lombardia, è una cosa di cui discuto con la Regione Lombardia quasi tutte le settimane. Se un car sharing e Enjoy o Car to Go funzionano bene, ma Dio mi scampi da occuparmene, benissimo, è un player che funziona, non ho nessuna intenzione, anzi li ringrazio per far parte di un sistema di mobilità e di un provider di mobilità che funziona. Se un pezzo non funziona, io sto solo dicendo che Ferrovie dello Stato credo che abbia la responsabilità di fare in modo che sta catena funzioni, perché siamo i soggetti più forti. Oscar, ammetti una cosa, quando mai abbiamo trovato un amministratore separando completamente la rete diventi questa roba qua. Ma sei vecchio, cazzo. Ma non sono vecchio, sì. Milano, perdonate, vi faccio tempo e touch. Milano, la grande l'area metropolitana, in Asse Lombarda abbiamo fatto il conto, tutte le diverse offerte potenziali, anzi attuali, oggi esistenti nell'area dei comuni che si sommano nell'area metropolitana, per l'offerta di servizio point to point o di rete, eccetera eccetera. E quindi si mettete insieme le varie ATM, MM, eccetera eccetera, le diverse piattaforme di radiotaxi, le diverse piattaforme di sharing, eccetera eccetera, sono in teoria 17 diverse. 17, ok. Siamo partiti 4 anni fa dicendo ai maggiori backbone pubblici: siete voi quelli che dovete fare un marketplace integrato tra diversi, per dare al milanese la possibilità di decidere in un unico posto, con un unico telefonino, di qua qua con, di qua qua con, di qua qua con. Zero, la risposta è zero, perché il pubblico non ce la fa a fare questo salto. Caro Alberto la pensa diversamente. Io sto parlando di Milano, l'area più avanzata e integrata da questo punto di vista, e con l'ATM che ha il bilancio in attivo. Non è il pubblico, Oscar, guarda che è un problema congenito di DNA di quelli che si occupano di mobilità. Io in questo momento, anche ai soggetti privati che sono nati per esempio nell'attività di car sharing e quant'altro, li sto dicendo: ragazzi, non fate l'errore anche voi che è stato fatto negli ultimi 10 anni delle aziende di essere autarchici, perché il problema è che chiunque entra nel mondo della mobilità, constatando che tutti gli altri fanno dell'autarchia un valore, diventano automaticamente autarchici anche loro. Quindi arriva un player come Flixbus e invece che chiedere di integrarsi con gli altri fa il suo Interrail, in cui la gente può viaggiare solo con Flixbus. È questo l'interesse del cittadino? Io non credo. Quindi il problema è questo, e non è un problema pubblico-privato, è evidentemente un problema di settore. Allora bisogna incominciare su questa cosa a parlarne, bisogna incominciare a risolvere il problema, e credo che per ovvie ragioni almeno in Italia noi abbiamo la responsabilità in qualche modo di di tirare questa cordata. Poi il problema ce l'abbiamo anche a livello mondiale. Hai accennato all'inizio che ho preso l'incarico in USA, ma ti rendi conto che noi per fare un treno da Milano a Francoforte, attraversando due paesi, abbiamo dovuto firmare un accordo trilaterale, primo firmato tra me, l'amministratore delegato e Ferrovie Svizzera, l'amministratore delegato e Deutsche Bahn. Poi dobbiamo mettere in piedi un treno che partirà fino al 2017, che a ogni confine cambia equipaggio, perché a ogni confine occorre... cioè, ma è una roba, capisci, questa è la friction. Nel frattempo con gli autobus a lunga percorrenza che attraversano tutta Europa e si muovono. Comunque, posso dire una cosa. Renditi conto, Oscar, che avere un amministratore delegato di Ferrovie che dice i miei competitor sono Google e Uber. Ma come fai a non voler bene a sto ragazzo? È ovvio. No, che... io lo temo. No, fammi dire, per una volta... Quando lo Stato becca uno bravo, il mondo si divide in due. I più hanno la conferma Lasciami dire bravi. Una roba quelli moderna. Dicono, c'è qualcosa che non funziona. Ecco. Allora, per la prima volta sento un amministratore di Ferrovie che dice non è ferro versus gomma, è smart versus dumb, è integrato versus autarchico a silos, è elettrico versus combustione. Questo che deve dire. Bene, intanto cominciamo a dire una cosa importante. Ha capito molto bene che il problema è che software is eating the world of logistics. Lo dico in inglese, che fa più figo. Devo interrompere perché per capirci e rimanere in argomento abbiamo il minuto sul traffico. Va bene. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati in studio e con i compagni dei Conti della Belva. C'è Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiano, con cui ci stiamo divertendo con un tono unofficial, però a fargli una sfida su spiegarci bene perché non dobbiamo avere paura, dobbiamo scommettere su questa grande idea. Non solo, ma per una volta con un'azienda italiana il coraggio di dire esportiamo questa logica in giro per il mondo, a me sembra importante sfidarlo. Tu hai detto che il progetto è ambizioso, ma io lo trovo fin modesto. Francamente mi sarei aspettato di più da sto ragazzo. Sì. Perché fammi dire una cosa. Questa storia qua che siamo al ridicolo. Vabbè. Sì. Questa storia che tu dici: ah, gli orari, i biglietti, le tratte, le ferme. Sei ottocentesco. Ma cosa? Vagamente sovietico. Invece la tesi sovietico sono le regioni che non hanno fatto le appunto, che invece sono lì seduti sui loro monopoli locali i comuni sui loro TPL che non mollano perché c'hanno le loro prebende. Questo è il problema. Allora, andiamo a scardinare queste con cose con un load qua. Factor ridicolmente basso, soldi buttati dalla finestra, materiale circolante preistorico. Questo è lo stato nel trasporto pubblico locale. Tu urla basta. Io cerco di far fare le API all'amico Mazzoncini, se non ti dispiace. Va cioè bene. Gli chiedo giustamente di poi, come dire, walk the talk, no? Allora, caro Mazzoncini, vogliamo parlare di questo modello. Come cambia la vita del viaggiatore quando poniamo lei riuscirà effettivamente a dare questo journey planner, vogliamo parlare, cioè questa come dire, sistema per cui il vero problema parte dalla pianificazione della visita. Come si fa a mettere insieme tutte queste teste? Come si fa a integrare? E questo vale anche per le merci. Ricordo che l'altro bel progetto è finalmente parliamo di tracking e tracing delle merci, una roba che non si è mai vista in sto paese, no? A questo punto il viaggiatore viene assistito in ogni suo passo. Il vero problema è non farsi disintermediare sulla bigliettazione e sulla gestione della customer experience. Stiamo spostando il problema finalmente dall'hardware, se posso dire, infrastrutturale al software. Ma voglio che mi parli anche di ANAS, perché la cosa bella, e lei lo ha citato con l'esempio delle ferrovie nordiche, delle strade nordiche, e che anche le nuove strade dovranno assomigliare molto di più alle logiche delle ferrovie, cioè dovranno essere strade intelligenti. Vediamo un po' di capire cosa cambia per il cittadino italiano o per il turista che arriva in Italia fra 10 anni e si trova il lavoro che state facendo compiuto. Allora, intanto spero che cambi molto prima di 10 anni, quindi dobbiamo andare molto più veloci perché abbiamo un mondo che va a 1000 km/h e dobbiamo viaggiare veloce anche noi. Hai messo insieme, voglio dire, 3 domande parecchio diverse tra di loro. È chiaro che in questo momento i grandi player mondiali dell'IT, quindi Google, Apple e molti altri, ma anche piattaforme nuove come Uber, stanno puntando ai nostri clienti. Cioè, loro non investono un euro in asset. Uber ha raccolto 18 miliardi di finanziamenti 2 mesi fa, gli ultimi 3 miliardi e mezzo dai fondi sovrani arabi, sauditi. e non investe un euro in asset perché utilizza le automobili, diciamo, dei cittadini, no? Quindi rende allocabili gli asset degli altri. Sta investendo tutti questi soldi sul cliente, cioè sulla piattaforma digitale, su quello che serve al cliente. È chiaro che dobbiamo darci una super mossa su una roba di questo genere, perché se non ci muoviamo veniamo disintermediati dai clienti, come è successo all'industria degli alberghi, dove piattaforme come Booking o Expedia stanno drenando il 30% da quell'industry. In più i prezzi sono abbassati moltissimo, ovviamente per i clienti è un grande beneficio, ma quando arrivi a un limite estremo l'industry poi muore e la qualità precipita, quindi bisogna riuscire a tenere un equilibrio. Quindi siccome però quello che serve ai cittadini è quello, cioè quello che sta tentando di fare Uber o che stanno tentando di fare quelli di Google, dobbiamo farlo noi se non vogliamo dare a loro la possibilità di vendere i biglietti. Dobbiamo dare la stessa piattaforma e quindi stiamo lavorando su un oggetto che abbiamo battezzato provvisoriamente Travel Companion, per farlo capire anche ai turisti che arriveranno, compagno di viaggio, che sarà un journey planner che ti aiuta a pianificare il viaggio e a ripianificarlo, che è uno dei problemi più grossi che hanno i nostri clienti oggi. Se il capo ti trattiene in riunione o hai un qualunque tipo di problema, ripianificare il viaggio, cioè cambiare il biglietto, capire come arrivare alla destinazione, oggi è un problema enorme. Dobbiamo dargli un'app e ci stiamo lavorando, la emetteremo l'anno prossimo, che consenta, quindi non tra 10 anni, ma l'anno prossimo, che consenta alla gente di pianificarsi il viaggio, comprarsi un unico biglietto e avere un oggetto che ti continua a ripianificare il viaggio ogni volta che tu cambi programma, esattamente come fa il navigatore dell'automobile se tu vuoi cambiare strada o se trovi un'interruzione stradale. Quindi su questo la vita potrà cambiare completamente. Servono due cose per riuscire a abilitare questo, perché tutto sommato il trasporto ferroviario adesso sta funzionando piuttosto bene. Bisogna che anche le componenti urbane funzionino bene. Milano funziona bene, Roma no, devono funzionare bene tutte. Torino funziona bene, Napoli no. Cioè non possiamo avere soprattutto le grandi città metropolitane che non funzionano bene. Dobbiamo avere gli altri modi che si stanno sviluppando benissimo. Il car sharing oggi ha 700.000 clienti in Italia, uno sviluppo, un boom incredibile. Vuol dire che la nostra gente, la nostra popolazione è pronta culturalmente. Questo è un segnale importantissimo. La gente vuole i servizi e noi siamo un'azienda di servizi e la gente è abituata a usare il digitale. Serve un'altra cosa fondamentale: le stazioni. Quando tu parli con la gente che usa l'automobile, gli chiedi: ma perché non prendi il treno? Lui dice: sì, il treno sarebbe anche comodo, tutto sommato anche veloce, ma devo andare in stazione. Devo andare. Questa parola, devo andare in stazione, queste tre parole sono una delle cose per me più insopportabili, perché la stazione viene percepita oggi, tranne in rarissimi casi, come un disvalore nella giornata della persona. Siccome le stazioni sono evidentemente l'hub che abilita la mobilità integrata, perché è lì che deve svilupparsi l'integrazione di mobilità, noi dobbiamo fare in modo che le stazioni diventino un posto dove la gente nella propria giornata acquisisce valore. Certo. E su questo abbiamo fatto due o tre operazioni straordinarie. Centri multiservizi, dove puoi fare tante cose. Dove trovi i servizi che servono ai passeggeri. Se un passeggero ha bisogno della lavanderia, deve trovarla là. Se ha bisogno di un mini market, deve trovarlo lì. Devono essere i servizi per il viaggiatore. E cosa abbiamo fatto? Due operazioni straordinarie importantissime quest'anno. Abbiamo diviso grandi stazioni retail da grandi stazioni rail e abbiamo ripreso al 100% la gestione da parte rail e abbiamo ricomprato il mese scorso la partecipazione in 100 stazioni. Sono le stazioni più importanti d'Italia, vogliamo gestirle noi a beneficio del cliente. Il mio core business è il viaggiatore. Se io penso che anche dalle stazioni devo tirare fuori business solo dalla parte retail, non andiamo da nessuna parte. Se vuoi poi ti rispondo sulle strade. Grazie. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Della belva. Eccoci qui tornati, cari ascoltatori, 11.6 minuti 47 secondi, resta con noi l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mazzoncini. Eravamo a metà di una risposta a una domanda di Carlo Alberto su questo grande progetto di integrazione dei servizi di trasporto. Stavamo parlando di ANAS, dell'operazione dell'integrazione. Esatto. Spiegaci perché dovremmo credere al tuo progetto, al vostro progetto di integrare. Dal punto di vista infrastrutturale è tutto chiaro, ci sono economie di scala, modelli, diciamo, di ingegneria comune, ma dal punto di vista dell'utilizzatore, avere uno stesso gestore di strade e ferrovie, che cosa cambia? Aspetta, fine, dal punto di vista di Giannino cambia il fatto che ANAS fino a questo momento è stato una grande palestra di opacità, perché vi devo ricordare che in tutto quello che riguarda le opere pubbliche c'era italiane, la nebbia, c'era la nebbia. No, no, no, c'era la nebbia. Il meccanismo dei collaudi fatti da dirigenti ed ex dirigenti dell'ANAS è stato uno dei propalatori maggiori di indagini di corruzione nel nostro paese e pezzi di opere pubbliche che una volta inaugurate cadevano. ANAS è anche questa roba qua, irrisolta. Mi dispiace per chi guida ANAS oggi. Quindi ecco, per dire, anche rogne, eh? Sì, sì. Allora, vediamo di far capire alla gente. Punto uno, che è dal punto di vista della strategia di base. Per me l'infrastruttura di mobilità è gomma e ferro. In Italia abbiamo 24.000 chilometri di binari e abbiamo 200.000 chilometri di strade, tra le strade statali, le strade regionali, provinciali e comunali. Quindi è del tutto ovvio che se vogliamo spostarci l'infrastruttura su cui ci appoggiamo è quella. Quindi tutti i nostri progetti di mobilità si appoggiano su questa duplice infrastruttura. Quindi, come dire, naturalmente mi interessa anche la parte dell'infrastruttura stradale. Credo che in Italia il fatto che ci siano state due gestioni così separate abbia, tra l'altro, anche dal punto di vista ambientale, creato parecchi danni negli ultimi 10 anni, perché la concorrenza tra queste due infrastrutture, e quindi un meccanismo di competizione invece che di coopetizione, basta che guardiamo da Google come è fatto il nostro paese, che cosa siamo riusciti a fare in tante situazioni, anche in tempi recenti, anche nel posto più inquinato d'Italia, che è la pianura padana, ci rendiamo conto di come forse un maggior coordinamento sulle infrastrutture è utile. Punto uno. Punto due, ANAS è pubblica amministrazione e forse le cose che dicevi dipendono anche dal fatto voi no? Che noi non siamo pubblica amministrazione, noi siamo un SPA, SPA regolata da un regolatore pubblico, come e sai, non c'hanno neanche il problema delle banche cooperative. Come sai, Oscar, noi siamo regolati dal primo regolatore, l'autorità dei trasporti, l'ART, è la prima autorità di regolazione dei trasporti nata in Europa, e tutta l'attività che fa la nostra RFI, gestore delle infrastrutture, è regolata dall'ART, quindi è l'ART che decide come sono calcolati i pedaggi, quanto deve essere il guadagno di RFI e quant'altro. Tutto ciò non avviene sull'ANAS, ammetto, che viene pagata a piedi lista, sì. Da parte dello Stato, ok? E in più gli investimenti che deve fare ANAS, che so, la Orte Mestre, la famosa I-45 che tutti sogniamo che prima o poi funzioni, venga messa a posto, per poter essere messa a posto deve essere finanziata pezzo per pezzo dallo Stato, perché ANAS, avendo il suo bilancio consolidato nel debito pubblico, non può contrarre debito se non aumenta il debito pubblico, quindi non è autonoma nei propri investimenti. Quindi abbiamo proposto insieme ad ANAS, a Gianni Armani, all'amministratore delegato, un meccanismo in cui ci sia un contratto di servizio tra lo Stato e ANAS regolato dall'ART, dalla stessa autorità dei trasporti. Quindi incominciamo a far diventare ANAS un oggetto normale. Una volta che ANAS è un oggetto normale, quindi è una società, diciamo, come RFI, la domanda è: vale la pena di tenerla sotto il MEF, sotto il Ministero della Finanza e dell'Economia, o vale la pena di portarla sotto la holding FS? E su questo lancio una suggestione, che è un po' più di una suggestione. Noi oggi siamo riconosciuti sull'infrastruttura ferroviaria tra le migliori aziende del mondo come tecnologia. Facciamo viaggiare i treni a 350 km all'ora a 5 minuti uno dall'altro. Sono 6-7 paesi al mondo che riescono a fare questa operazione. Io sogno che anche sulla parte stradale diventiamo un benchmark, e osservo cosa accade. E sta accadendo che sulle primitive strade che vengono tutt'oggi costruite, simili a quelle dei romani, tranne il fatto che l'asfalto magari è un po' più luccicante e il guardrail un po' diverso, iniziano a viaggiare delle strane automobili che vogliono andare in autonomia. Allora la domanda che mi pongo è, come le alimentiamo? Io è dal 2001 che viaggio in auto elettrica, oggi viaggio solo in auto elettrica, viaggio poco perché vado sempre in treno ovviamente, però autoguida autonoma, quindi bisogna trovare il sistema di alimentarle. E la domanda che mi pongo è: quando una Tesla dice voglio andare da New York a Washington, come ci va? Perché attualmente ci va con delle videocamere che guardano le linee bianche lungo la strada. Non ci sono segnali elettronici. Bene, allora, ma se viene a nevicare, che cosa succede? Cosa succede in quella? Non va, evidentemente. Certo. No. Allora, io credo che in questo momento stanno facendo bene le grandi fabbriche dell'automotive, soprattutto quelle nuove come Tesla e Google, a spaccare il sistema. Perché è chiaro che non sono più delle automobili, sono degli oggetti diversi. La Tesla è un iPad con le ruote, un oggetto diverso. Sono piattaforme di connessione, ma... che hanno bisogno di una sensoristica diffusa. E allora è un treno con le gomme, posso dire questo? È un treno con le gomme, ma allora cos'è che succederà? Succederà la stessa evoluzione sulle strade che è accaduta sulle ferrovie, cioè l'infrastruttura ferroviaria è cresciuta, è diventata moderna, perché i treni che ci andavano sopra si sono modernizzati, erano più potenti, avevano bisogno di energia elettrica per andare a 300 km all'ora, avevano bisogno di performance della rete completamente diversa. Certo. Quindi io mi immagino che anche le strade dovranno essere assolutamente dotate di tecnologia, di sistemi di segnalamento, di elettrificazione molto simili a quelli della ferrovia. E credo che questa osmosi di know-how dalla parte ferroviaria alla parte stradale sia sicuramente accelerabile se li mettiamo insieme. Allora mi sono guardato in giro con la nostra squadra, ci siamo guardati in giro e ci siamo accorti, per esempio, che in Svezia l'hanno già fatto. La Svezia è piccola, però ha già un unico gestore delle infrastrutture. Siamo andati a vederlo. Aveva un gestore di rete ferroviaria diverso da chi però offriva i servizi ferroviari. Ma però non guarda, Oscar però ce l'aveva. Oscar, no. Però lo schema è lo stesso. Cioè, sì, li hanno messi insieme e cos'è successo? Hanno detto, benissimo, noi vogliamo decarbonizzare tutto il trasporto entro il 2050. Quando gli svedesi decidono di farlo, poi lo fanno. Possiamo portare tutte le merci su ferrovia? Impossibile. Non c'è abbastanza spazio, certo, sui binari. Possiamo portare al massimo 40%, ma però vogliamo decarbonizzare, quindi come si fa? Soluzione elementare, elettrifichiamo le strade. Allora, basta che i cittadini, i nostri ascoltatori, vanno su Google e mettono su autostrada elettrica Svezia, sì, sì, e vedono cosa e hanno vedono fatto. Cosa cioè, hanno, fatto. Hanno incominciato, la tecnologia ferroviaria è arrivata sulle strade. È quello che bisogna fare, perché in tutti i paesi del mondo la rete stradale è di 20 volte superiore normalmente alla, certo, rete ferroviaria. Ferroviaria. Noi non possiamo pensare di costruire reti ferroviarie che coprono in maniera così capillare, quindi dobbiamo pensare di modernizzare le strade. Il mio sogno è che con un'operazione di questo genere, oltre a rendere ANAS più efficiente dal punto di vista degli acquisti, delle attività, dei lavori, dei collaudi, come dicevi tu, oltre a dargli un'autonomia finanziaria che gli consenta di programmare gli investimenti necessari senza gravare sul bilancio dello Stato direttamente, possa anche diventare un'azienda moderna dal punto di vista delle strade, perché io sono sicurissimo che tra 20 anni nessuno di noi guiderà più l'automobile se non in un autodromo, e le automobili e i tir andranno tutti in fila controllati da un sistema di segnalamento sulle strade, e il primo che arriverà a fare questa operazione sarà il gestore più tra 20 anni, siccome no, però la prospettiva è quella. Ma no, prima guarda, e questa cosa va testata in Italia, 20, ma guarda, perché Oscar, le accelerazioni il tasso si fanno, di accelerazione è pazzesco, abbiamo un'iperbole su questo, quindi voglio dire è quello che accadrà. Lo capisco bene. Allora siamo i primi nelle infrastrutture, siamo tra i 5-6 paesi al mondo più forti sulle infrastrutture ferroviarie. Mettiamolo sogno che frutto. Lo diventiamo anche sul mettiamolo frutto. Mettiamolo esattamente. Frutto. Capisco. Niente. Niente, a questo punto faccio l'ultima domanda, posso? Però Renato? C'è 30 secondi. 30 per secondi. Risposta, senti, ma uno che è riuscito a 26 anni a mettere d'accordo 152 inquilini di un'assemblea condominiale, no? Quindi diciamo, sei andato a questo in cattolica punto, a sentire, sì, a questo punto esempio. Può fare qualsiasi cosa, no? Compreso l'amministratore. Piano, ragazzi, senti, perché io non mi arrendo a questo signore. Posso fare una domanda proprio te? Perché non, sei già reso, perché non vi comprate il 51% di Alitalia? La facciamo finita. Almeno finalmente questa idea dell'integrazione non è un logistica. Buon consiglio, Carlo Alberto. Gli stai dando consiglio una possibile domanda, fregatura. Non è un consiglio. Dai. Non lo so. No, sinceramente non ho mai guardato all'Italia. Ho già abbastanza problemi sulla parte terrestre. Te lo do io il buon consiglio. Stai diplomatico su questa parte. E quindi rimango diplomatico. Per una volta prendo il consiglio di Oscar. Per una, va una bene, volta grazie. Ogni tanto. Comunque, grazie e buon lavoro a questo grazie temibile. A tutti, saluti agli ascoltatori. Perché è temibile, perché capisci, e nel corso del tempo un amministratore delegato dello Stato per Giannino è meglio se sia del passato remoto. Ti diverti quando di più è uno quelli con bravi sono un problema ti crea più problemi perché è più bravo, e questo però speriamo che dalle critiche e anche dalla sua disponibilità però ad esporsi, perché sottolineo che non tutti i suoi predecessori avevano questa stessa facilità, buon lavoro e grazie. La gabbia di delle belve non fate. È molto ospitale, esattamente, diciamo. Grazie a Maccioncini, noi torniamo tra un minuto. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Come on. Eccoci qua, tornati in studio, i compari di Conti della Belva, Oscar, Mario e Carlo Alberto. E traiamo spunto dal 50° rapporto del Censis che c'è stato ieri sull'Italia, e in particolare da tra i tantissimi aspetti, perché ovviamente ci sono capitoli su tutto, sull'evoluzione del sistema dei mezzi di comunicazione in Italia, sul rapporto tra istituzioni e fiducia nel paese, eccetera eccetera. Però io sono stato molto colpito da un tema che è ricorrente e secondo me fa bene chiunque dia nuovi dati e offra nuove occasioni per rifletterci sopra: che futuro ha un paese in cui tutto sommato quello che è evidente nell'attribuzione e stratificazione dei patrimoni diventa la realtà su cui bisogna insistere per la descrizione del paese, cioè un paese di anziani rentier, per essere chiari. Naturalmente con la semplificazione si rischia di urtare tutti i pensionati italiani che dicono: ma di che state parlando? Non è vero che noi siamo i ricchi. Ok, però comunque l'andamento della ricchezza nella fascia over 65 ha un netto segno più, dato Banca Italia. Tra l'altro nei prossimi giorni di dicembre esce il rapporto sui conti 2015 patrimoniali anche di Banca Italia, quello che è uscito un anno fa, ve lo ricordo sempre, diceva negli ultimi tra il 95 e il 2014 stock di ricchezza attribuito uguale a 100 nel 1995, alla fine del 2014 per gli over 65 è passato da 100 a 160, stock di ricchezza attribuito invece a chi ha meno di 35 anni nel nostro paese, fatto pari a 195, passato a 40, esatto. Per capirci, questa è allora il rapporto Censis su questa cosa c'ha un bel po' di riflessione, e non è facile affrontare questo tema, perché un conto è descriverlo, l'altro conto è capire come. Però tutto quello che abbiamo visto all'inizio sul mercato del lavoro, ricordatovi da Mario Seminerio per esempio sulla corte over 50 premiata, è una conferma notevole di quello che in questi anni sia stato l'effetto di altre misure che magari nella testa di qualcuno non lo concepite per riequilibrarla questa cosa. Dopodiché nel rapporto Censis ci sono anche cose che mi sorprendono, perché a un certo punto si attacca la propensione degli italiani a voler estrarre più reddito dalle case. Ma come, rispetto al loro portafoglio le case sono così importanti, è meglio che lo facciano in questa condizione di squilibrio patrimoniale. Comunque, per parlare di tutto questo e per ringraziare del lavoro che Censis continua a fare, con noi il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Questa i vecchi rentieri e i giovani esclusi, dal punto di vista del Censis, in realtà il bilancio effettivo delle misure assunte in questi anni l'ha aggravato a questo squilibrio, e come mai? Ma io dico subito una cosa, si parla sempre del declino demografico, no? L'anno scorso abbiamo avuto meno di 500.000 bambini, non erano mai stati così pochi i figli nati in Italia dal 1861, dall'Unità d'Italia. Io dico che questo però non è un fatto nuovo di oggi, è un fatto che è un declino che viene ormai da decenni. Il risultato qual è stato? Che il numero dei giovani oggi in Italia è basso. Il fatto che oggi in Italia ci siano pochi giovani come effetto del declino demografico che è cominciato con gli anni Ottanta significa che hanno una scarsa incidenza politica, che hanno una scarsa capacità di rappresentanza. Questo significa quindi che molte misure che vengono prese siano meno orientate a favorire la condizione dei giovani. Perché quello che colpisce non è soltanto il fatto che le famiglie dei giovani con meno di 35 anni oggi abbiano un reddito o una ricchezza più bassa della media. Colpisce il fatto che hanno un reddito, una ricchezza più bassa dei loro coetanei di 25 anni fa. Sì. Questo, cioè i millennials di oggi hanno un reddito che si è ridotto del 26% rispetto ai loro coetanei dei primi anni 90. E mentre al contrario, questo gioco, come dire, intertemporale di trasferimento di risorse, è cresciuta la ricchezza delle persone più avanti con l'età degli over 65. Una spiegazione è quella che le dicevo, cioè il fatto che si è sottigliata notevolmente le coorti di giovani, sono diventate veramente esigue in questo paese, significa che hanno una scarsa incidenza politica. E non è vero che questo è un fatto che riguarda tutti i paesi occidentali, perché ad esempio in paesi come la Francia il numero dei giovani con meno di 35 anni, l'incidenza percentuale sul totale della popolazione non è così basso. Allora ci sono due temi: quello del come dire, delle misure che frenino questo declino demografico e quindi come conseguenza l'assottigliamento della componente giovane della popolazione, e dall'altro già oggi, già subito, misure che valorizzino il capitale umano giovanile, anche perché, cosa che non si ricorda mai, i giovani di oggi hanno delle competenze che mai nessuna generazione di giovani prima di loro ha posseduto. Hanno una proiezione verso la globalità che era sconosciuta alle generazioni di giovani precedenti. Banalmente, conoscono l'inglese come mai nessun giovane prima di loro lo conosceva. Hanno delle competenze specifiche, penso ad esempio alle competenze digitali, che mai nessun giovane prima di loro possedeva. Terzo aspetto, hanno un tasso di istruzione, ad esempio un numero di laureati, che mai nessuna componente giovanile prima di questa componente giovanile in Italia ha posseduto. Allora è paradossale che con dei giovani che hanno delle competenze anche specifiche molto più alte di quelle dei giovani che li hanno preceduti, oggi si trovino a essere invece il segmento più vulnerabile da un punto di vista lavorativo, reddituale e di patrimonializzazione. Se c'è un aspetto che collega il vostro criterio generale nel rapporto di quest'anno è quello che voi definite, rifacendovi a un grande vostro successo storico dell'interpretazione sociologica dell'evoluzione economica del nostro paese, cioè sommerso, che in effetti va riconosciuto, care belvette qua in studio, che è una cosa che è derita come nel proprio copy, per così dire, questa seconda era del sommerso, che voi dite essere un po' il criterio consente di leggere meglio questa crisi di funzione tra le istituzioni, come cernina tra il mondo politico e il corpo sociale italiano nel nostro paese, cioè una seconda era del sommerso, post-terziario, dite voi, che ha molte cose che non vi convincono molto, alcune delle quali invece convincono noi, a dire la verità, perché per questo mi interessa collegarla alla faccenda dei giovani, perché lei diceva che i giovani sono più talentuosi della generazione precedente, più laureati della generazione precedente, bisogna valorizzarli. Il problema è che navigano proprio per via di come abbiamo costruito il mercato del lavoro e per come continuiamo a intervenire nel mercato del lavoro, perché poi il Jobs Act ha avuto lo stesso effetto, però senza porre la testa esattamente in quella specie di mix che voi descrivete come un po' la terra più feconda di questa seconda era del sommerso post-terziario, cioè forme di gestione del risparmio innovative, voi le chiamate cash per non andare in banca, però diverse dalla solita intermediazione bancaria, la strategia di valorizzazione patrimoniale degli immobili abbandonati prima con iniziative che spesso sono dei giovani e non sono degli anziani, e che anche qui vi convince, ma fino a un certo punto per voi è un segno di stress della società, non è un segno di invenzione di nuove tecniche per messa a reddito di un patrimonio che non è stato assolutamente valorizzato, figure lavorative che stanno tutte ovviamente nei contratti a tempo, che stanno tutte, allora questo secondo sommerso post industriale che non vi convince, perché per voi è l'espressione del fatto che le istituzioni, politica e società non vanno con lo stesso passo, non è che è proprio quella invece la nuova dimensione che dovrebbe dare una soddisfazione a queste generazioni che sono corti di corte, per così dire, e poi scarse di possibilità? Ma c'è una differenza sostanziale rispetto al sommerso pre-industriale, che era di tipo manifatturiero, che Giuseppe De Rita e il Censis descrivevano nei primi anni 70, perché quello aveva una forza propulsiva che quello di oggi non ha. Mi spiego meglio. Quello che De Rita raccontava nei primi anni 70 erano ad esempio gli stracciaroli pratesi che avevano i telai nei sottoscala, ma poi hanno fatto emersione e sono diventati il distretto del tessile, oppure gli scarpari marchigiani che poi però hanno fatto emersione e sono diventati i campioni, sì, del Made in Italy. Quindi c'era una forza propulsiva che poi ha dato luogo alla piccola impresa, agli distretti industriali, al localismo. Era un distretto, era un sommerso di tipo manifatturiero. Quello di oggi non è legato, è un sommerso appunto che abbiamo definito post-terziario, perché non è legato al manifatturiero, alla produzione, al lavoro, al fare impresa. È un sommerso di redditi, per fare più redditi, non lavoro e impresa. Ovviamente non c'è nulla di male nel mettere a valore il proprio patrimonio immobiliare per ricavarne una rendita, però è evidente che c'è un cambio di passo, ecco perché parliamo di un'Italia rentier, perché non c'è nulla di male, ma se c'è solo quello, oppure è appunto un patrimonio di redditi, è un sommerso di redditi, non innesca un meccanismo propulsivo di sviluppo con grande proiezione in avanti, oppure anche il sommerso. Però vede, studi, questo, voi siete grandi artigiani e poi diventate, insomma, una grande impresa industriale dal punto di vista dell'impatto dell'immaginario pubblico italiano. Sì. Io questa è la prima volta dopo tanti anni cui non mi trovo proprio radicalmente d'accordo, spiego perché, ma con grandissimo rispetto, cioè ci mancherebbe altro, che io non è che mi pretendo, ma come osservatore spiego perché. È a fronte di un tragico ritardo nell'unità di capitale investita media dall'impresa turistica tipo italiana, si tratti da chi ha la concessione in battigia a chi ha l'hotel di fronte alle spiagge, al segmento più elevato degli alberghi a 6 e 7 stelle, che la risposta data da quello che può sembrare una strategia di pura ottimizzazione di redditi che non ci sono attraverso patrimoni che sono mal gestiti porta molti a entrare nel mondo Airbnb e a determinare le reazioni orrende che arrivano alla politica dal macrosettore di vecchi alberghi su cui si è investito troppo poco. Allora, in quel caso l'innovazione è un'innovazione verissima, invece non è affatto una strategia di pura sopravvivenza per mettere a reddito vecchie pietre che non hanno alcun valore. Allora, questo tipo di obiezione, ho scelto apposta la cosa, è un'obiezione che io vedo replicata in tantissimi ambiti in cui non è pura sopravvivenza, è il tentativo di aggirare dei vincoli di tipo regolatorio e purtroppo figli della classe media troppo bassa di impresa del settore. Non so che ne pensi, Carlo Alberto. Ci aggiungo l'agricoltura, Oscar, che ha avuto un grande ambito di sviluppo per la componente, per esempio, dei periti agricoli, che hanno aumentato la frequenza agli istituti 28-30%. Quindi è vero, hai ragione tu, c'è un'innovazione di servizio che reinventa i processi. L'agricoltura, andando sul valore aggiunto, sul bio, sul lo riconosco, c'è un bel capitolo su questo. Quindi per me i giovani stanno reinventando una piattaforma di servizi che deve essere forse interoperabile col resto, e trovo che sia una manifattura di servizi che ha invece la sua logica. Ricordo però, e questo è vero, che il 40% dei giovani italiani vuole andare all'estero contro il 10% della Germania, quindi posso dire c'è anche comunque un po' un tema di attrattività del sistema paese, su questo dobbiamo riconoscerlo. Comunque abbiamo criticato Valeri, sentiamo la sua risposta, perché non vorremmo essere sbagliati cattivi, ma è per discutere. No, assolutamente, ma non vorrei essere frainteso o che venisse fraintesa la lettura che noi abbiamo dato. Non è in discussione il fatto che, ad esempio, sfruttando le piattaforme digitali si immette una forte dose, un'importante dose di innovatività nell'offerta dei servizi, nell'organizzazione dei servizi. Non è quello in discussione. Quello che noi abbiamo cercato di dire è che, da una parte, cioè la messa a reddito, come dire, dei patrimoni immobiliari, dall'altra tutta una serie di servizi che nascono intorno alle piattaforme digitali, alle app, che è difficile poi, a parte quelle che poi si trasformano ad esempio nella valorizzazione turistica, come lei ha ricordato, che hanno una loro assolutamente importanza, è difficile però applicare delle categorie tradizionali a questo tipo di servizi nuovi che stanno nascendo. Le faccio un esempio molto pratico, che riguarda in particolare i giovani. Se io do un passaggio in auto sfruttando un'app, una piattaforma che mi mette in contatto con una community, se io do un passaggio in auto ad un'altra persona e ne ricavo magari una forma di pagamento, ho creato sviluppo, che tipo di categoria interpretativa possiamo dare? Che tipo di categoria interpretativa sul lato economico possiamo dare a questo servizio? Oppure, io faccio uno scambio di appartamento per le vacanze utilizzando una piattaforma web, ho generato un valore perché io posso permettermi di andare in vacanza a Parigi senza spendere soldi per andare in albergo, quindi ho sicuramente generato un valore. Allora, quello che voglio dire è che c'è un contesto molto più sfumato, molto più diverso, nuovo rispetto al passato, rispetto al quale dobbiamo trovare delle nuove categorie interpretative, anche per quantificarlo, non c'è perché dubbio, è molto più sfuggente. Non c'è dubbio, però voglio dire, si tratta di due casi che sono classici, perché su cui si misura che cos'è l'economia digitale, che è quella che fa aumentare in realtà il PPP, cioè parità potere d'acquisto, e quindi moltiplicano i redditi, non so se è chiaro. I redditi perché, reali, perché anche li senza aumentare quelli nominali. Come capacità di acquisto, esattamente questo, cioè che è una delle dimensioni per cui bisogna cambiare la maniera in cui sono costruite esattamente i vecchi criteri di rappresentanza delle imprese, eccetera, eccetera, su cui secondo me posso fare l'ultima critica, cioè, se, guarda troppo ancora con quegli occhi lì. Noi abbiamo bisogno di tutta la forza del census invece sulle nuove frontiere che scardinano tutte quelle robe lì. Le cose che lei ha detto, cacchio, servono. Io non ho aumento di reddito nominale, benissimo, io però elevo, moltiplico la capacità di acquisto di un reddito fermo, se non in regressione anche in termini reali. Alla faccia, è uno dei criteri fondamentali nel mondo in cui viviamo. Comunque, grazie a Massimiliano Valeri, noi torniamo tra un minuto. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qua, siamo tornati in studio, 11:38 primi 46 secondi, siamo un po' in ritardo rispetto all'andamento della trasmissione perché questo amministratore delegato delle ferrovie si è preso il campo, ci ha messo sotto perché Carlo Alberto gli ha dato una mano. Vabbè, eccoci sto qua. Sto scherzando. Allora, la sigletta che è partita è quella felliniana perché come al solito la usiamo per sottolineare un passaggio, una dichiarazione, un tema interno, internazionale, in politica e economia su cui riflettere, per così dire, su cui riflettere. E quindi, caro Alberto, allora qual è il tema che abbiamo scelto questa settimana? Perché c'è Udo Gumpel con c'è noi. Udo, sì, no, il tema è con che logica si presenta al 2017 agli elettori tedeschi il governo, come dire, il nome tutelare della libertà occidentale, come sembrava volere diciamo affidare Obama. È vero che la Germania è leader della libertà europea e mondiale, Udo? È vero che il 2017... bicchiere di latte? Udo al bar. Udo, ci sei? Udo? Sì, sì, ci sono. Ah, sì, sì, mi raccomando che sia latte, latte a chilometri zero, mi raccomando. No, volevo chiederti, ma vi sentite voi germanici, scusa se uso questo termine più corretto, vi sentite voi germanici veramente i difensori, un po' paradossale, ecco dire, i difensori della civiltà occidentale in questo, il 2017 sarà un anno in cui... Cioè, la domanda è se Obama, quello che ha detto Merkel, esatto, è vero, più o meno. Esatto, è più questo il concetto, sì. Ma ragazzi, secondo me qualche seme di verità c'è. Ecco, vedi, vedi. Qualche seme di verità, perché la Germania ha dovuto fare, a rivoltarsi come un calzino dopo i 13 anni del nazismo. Non mi ricordo più quanti anni erano in Italia, forse 14 anni è sotto il Duce o qualche anno in più. Ma comunque la Germania si è veramente rivoltata come un calzino e ha tentato di non solo processare quei circa 100.000 criminali di guerra in Germania a partire dagli anni 70, 100.000 tedeschi processati in Germania per i crimini commessi all'estero. Dunque questo è stato probabilmente la grande campana che ha fatto capire ai tedeschi che le cose erano veramente andate completamente storte e non erano quei 200-300.000 processi che gli inglesi, gli alleati hanno fatto nell'immediatezza della guerra e poi gli 800 condanne a morte. Naturalmente di questo voi non avete mai letto nei libri di storia in Italia che la Germania aveva subito non solo i processi di Norimberga ma anche i processi fino al 53-54 quando praticamente ogni funzionario nazista doveva passare davanti ad una commissione e molti di essi sono finiti in galera e come vi ho detto 800 furono anche condannati. Sai com'è, Udo, noi abbiamo avuto la finta epurazione in Italia e l'amnistia Togliatti, noi abbiamo preferito dimenticare tutto infatti, perché gli italiani erano buoni. Quindi. Brava, invece amnistia non c'è stata in Germania e tutti quanti di cui si è potuto prendere in una certa misura sono stati condannati, anche se detto da me molte di queste condanne nei processi degli anni 60-70 furono miti, erano pochi anni di galera eccetera, però il processo c'è sempre stato e l'agonia c'è sempre stata per la persona che è stata condannata perché ha ucciso civili e l'unico problema che era l'Italia negli anni 60 e questo mi sembra molto importante dire, non ha mai voluto consegnare alla Germania i nomi, i cognomi né i documenti delle stragi commesse in Italia perché si era fatto il processo Mazzabotto e poi non si è più quasi fatto nulla. Il famoso tema dell'armadio delle vergogne, cioè esatto. In Italia rimasero gli atti. È vero, vero Oscar, ma in questo, dato che voi che io me ne sono occupato, che poi io all'inizio, alla fine degli anni 90 ho cominciato a fare io le ricerche, ho trovato il nostro gruppo di ricerca investigativo, gli assassini di Mazzabotto, di Sant'Anna e di molti altri posti che la giustizia italiana credeva morti, anzi li davano per presunti morti dei re, avevano richiuso i processi. Dunque questa è storia vissuta anche da me, dalla nostra redazione, ma se la Germania oggi si ritiene un baluardo, una difesa della democrazia in Europa, non è solo, tra virgolette, per questa storia che la Germania, penso sinceramente, adesso ve lo dico, da tedesco di seconda generazione, prima eravamo danesi, che secondo me il conto con la storia della Germania ha fatto. E allora da questo conto, da questa lezione della storia, la Germania ha imparato di dover veramente non mai più abbandonare la bandiera democratica, la bandiera delle libertà dei popoli, anche della collaborazione all'interno dell'Europa. Se voi avete capito, la Merkel, che si accusa sempre di non prendere decisioni, ma in realtà la Merkel lavora per mettere d'accordo le persone dietro le quinte e presentare risultati. Questo è un po' il suo sistema. E naturalmente il ministro degli esteri Steinmeier, che adesso sarà presidente della Repubblica in Germania, si è esposto molto in dichiarazioni anti-Trump, no? Che peraltro Trump è nipote di un migrato tedesco bavarese, che gli hanno tolto all'epoca, circa 110 anni fa, gli hanno tolto la cittadinanza al suo nonno, e perché lui si era rifiutato di fare servizio militare in Baviera, no? E allora è scappato, ha poi scritto una lettera al re bavarese: ma io sono un bravo tedesco, io sono sempre tedesco, ma fatemi fare il servizio militare. Ormai aveva 45 anni, ma non l'hanno più fatto, e così i miliardi si è tenuto, perché già all'epoca il nonno era diventato ricasto, milionario, no? Molto molto ricco. Comunque tu dici, insomma, no, in buona sostanza il conto con la storia è fatto, ma la mia domanda è: chi vota per l'alternativa del Fuidocent, esatto, è fuori da questo complesso di colpa e dice basta sentir parlare di responsabilità storica, pensiamo al nostro interesse e non più agli immigranti e agli altri paesi europei e fottiamocene, o è un criterio ipersemplificativo? Perché gli italiani devono pagare il prezzo dell'instabilità percepita e voi invece avete questo dividendo della stabilità che tutto sommato invece dovrebbe essere messo sotto critica, no Udo? Ma sai, il dividendo della stabilità nasce dall'interno tuo. Se tu organizzi il tuo paese in modo stabile, se tu costringi tutti più o meno a pagare le tasse, già non hai più un problema di entrate, no? Il tasso di evasione in Germania è del 2-3%, secondo i criteri internazionali, e in Italia almeno l'8-10% stimano al criterio italiano. Già questo piccolo differenziale è quello quasi più importante, perché significa che se la tua città pagano le tasse, poi sinceramente sono convinto che l'Italia ha tutti i modi, ha tutte le forze interne per sollevarsi da solo, che peraltro l'Italia sta crescendo, non è che adesso è più in declino, la crescita è lenta, però secondo me sono state intraprese negli ultimi tempi, proprio anche sotto Letta, da Monti in poi, e io difendo a sparatratta la riforma Fornero, sono state prese delle misure giuste per mettere in sesto l'Italia. Anzi, insisto, la riforma Fornero era fondamentale, è ancora oggi fondamentale, ed è per certi versi meglio di quello che hanno fatto in Germania adesso, perché hanno ridotto per alcune categorie l'età pensionabile da 67 a 63. Dunque l'Italia una volta ha dato l'esempio all'Europa, capito? Fai bene a dirlo, anche io lo penso, sai che è impopolare dirlo, ma però è questo. Però la risposta, caro no, c'è un altro tema, secondo me, che riguarda la finanza, riguarda il rapporto fra Stato e finanza, che è una delle cose che oggi noi viviamo come problematico e che la Germania forse non ha completamente elaborato, no? Mm-hmm. Anche qua, la Germania è baluardo della corretta integrazione fra politica e finanza, oppure qualche cosina da rivedere ce l'ha, Udo? Allora, la Germania ha fatto una cosa da molto tempo. Lo Stato, la Germania, è uscita tanto tempo fa dalle grandi aziende, dalle banche, ha dovuto solo entrare nella Commerzbank nel 2009, quando c'era il grande crack, ha nazionalizzato una banca che stava, la Hypo Real Estate, che stava andando in fumo, perché peraltro, una cosa che si dimentica, erano azionisti americani che avevano investito nel subprime. E la Germania da un giorno all'altro, con Schäuble e all'epoca anche i socialdemocratici, hanno nazionalizzato quella banca, hanno detto garantiamo noi, hanno istituito questo fondo di garanzia, che però non significa aver messo direttamente, no, però restavano le Landesbank in pubblica. E le Landesbank sono state, molte di esse sono state chiuse, completamente chiuse. Perciò la Baviera, che è una regione molto ricca, ha fatto delle perdite immense. Per fortuna per la Baviera è una regione che non ha in pratica debiti, che si sono dovuti supportare i debiti della propria Landesbank. C'è un'altra Landesbank, quella di Schleswig-Holstein in Amburgo, che è in cattive acque, perché ha investito troppo nelle navi. Comunque, come si vede, no? Io ringrazio Udo Gompa perché ha spiegato ai nostri ascoltatori che anche in Germania, lo Stato, dove è certo più efficiente da noi, anche lo Stato in Germania, se lo Stato si mette a fare credito, eccetera, eccetera, poi ha dovuto piegare e imparare la lezione, ripiegare le bandiere, per così dire. Se paragonate con tutti quelli che in queste ore continuano a dire che bisogna invece fare intervenire lo Stato nelle banche italiane, c'è una certa differenza e rumore di fondo. Grazie, Udo Gompa. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati per questi ultimi minuti del nostro Conti della Belva, con la Belva che fino a questo momento era lì a raccogliere i pezzi ancora dell'incendio che si è sviluppato vicino a casa sua, nella una delle più grandi raffinerie dell'Eni a Pavia. Renato Cifarelli, eccoci qua. Allora, mi sembra che oggi un Renato abbia già parlato abbastanza. Beh, fin troppo, ma qui hanno calato le mutande, Renato, qui è arrivato alle Ferrovie dello Stato, gli vogliono far fare il più grande marketplace italiano col governo, in mano alle mani del governo, e io poi devo credere che Ferrovie dello Stato integra l'offerta dei suoi concorrenti e non la volge a proprio vantaggio. Ma quando mai? Muoio. Vabbè, piuttosto. Però diciamo che se non altro mi ha riempito un po' il cuore sentire un amministratore delegato di una grande azienda pubblica parlare in questi termini, parlare, no? di queste cose, dai. Sono d'accordo, ma no, Calaberto dice che io sono antico ad avere questi dubbi. Io sul fatto che i grandi gruppi pubblici amino davvero la concorrenza non lo so. Lo sappiamo, basta vedere come ti vesti, dai Oscar. È vero, dai, sono un vecchio residuo, come del resto. Io posso galleggiare solo perché sono un rottame, questo è il punto. Come mi diceva mia madre, quelli come te galleggiano perché sono rottame. Allora, ma st'incendio com'è andata? No, ma io ero via quel giorno, me l'hanno segnalato dall'azienda, perché da casa, praticamente da dove abbiamo l'azienda, noi si vede. Però direi che è stata una situazione di grandi procedure di sicurezza. Perché poi non si è fatto mai nessuno si è fatto male. Notavamo stamattina che il Corriere della Sera mi ha dato un inviato per fare due pagine, che era ovviamente era dare il resoconto due giorni dopo, la grande distruzione, gli effetti eccetera eccetera, e il proprio inviato torna con le prime nel sacco, perché i pavesi dicono ma cos'è che ci chiede? Cosa è successo in definitiva? Come vede, niente di che. Che rispetto alla cultura del dramma dell'incidente industriale italiano, chiaramente il giornalista ha scritto questo pezzo dicendo vabbè ragazzi, che vi devo dire, a Pavia ragionano così, però mi ha molto colpito. E invece, no, perché le procedure di gestione e sicurezza di Eni sono ben fatte, riconosciamo che le cose funzionano. Anche perché la gente crede che un impianto di quel tipo non ci sia un incidente, un'ordinarietà di incidenti non così gravi ma abbastanza elevati, invece c'è, perché stiamo parlando di impianti che, per quanto sovratarate rispetto a pressioni fisiche che devono stabilire, sapete com'è la dinamica dei fluidi e la dinamica dei liquidi. Può generare delle cose di questo tipo. Comunque, detto tutto questo. No, senti, allora, non so quanto tempo abbiamo, poco mi sa. Sì. Senti, una chicca di oggi, perché stamattina leggevo il quotidiano della casa e ormai siamo usciti dall'antro, perché ormai il governo fa le leggi. E la Orlandi le illustra, quindi del tipo abbiamo fatto di tutto per, cioè non hanno più neanche la remora di dire il governo fa la legge e l'Agenzia delle Entrate la applica. Praticamente stamattina lei illustra il nuovo modulo, tanto per cambiare hanno fatto una nuova denuncia da fare, quella dell'IVA, no? Sì. E dice no, ma abbiamo fatto di tutto per fare in modo che voi abbiate i sistemi informatizzati che vi buttano già fuori i dati, voi dovete solo compilarli. Ma no. Ti stupisci del fatto che Laurlandi ci riveli che lei, oltre ad avere scritto le norme, perché poi questo è indicibile, ma io lo dico, è lei che poi le attua con propri strumenti ed è l'unica autorità interpretativa? Purtroppo è così questo paese. No, ma a questo punto la cosa è diventata trasparente, hai capito? Perché fino a ieri. E a questo punto, dovremmo dire, e leggiamola però la capa dell'Agenzia delle Entrate. No? Saniamo questo conflitto fra tassazione e rappresentanza, che invece, come sai, è il pilastro del liberalismo, vero caro? Ma io vi posso anticipare che tra pochi mesi il capo di Agentrate diventerà il capo attuale di Equitalia. Guardate che tipo di previsione che faccio, Ruffini diventerà capo di Agentrate. Vediamo se sbaglio e se non è un meccanismo politico a determinare questa cosa. In cauda venenum, Cifarelli ci ha dato la possibilità di chiudere nell'unica maniera che in questo giorno di totale rispetto del silenzio sulle vostre scelte si poteva fare per parlare comunque di politica. Renataccio, vedi che sei cattivaccio anche tu, sei più vicino a Giannino, non come Carlo Alberto oramai smutandato, però vabbè. Carlo Alberto non reagisce neanche, guarda, sta ridendo. Cari ascoltatori, continuate su Radio 24. Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e finita.